Anzi, proprio perché le lobby esistono nel gioco e sono potenti, visto che ci sono interessi economici enormi, leciti e illeciti, e le entrate per lo Stato sono grandissime, ha detto ancora Grilli, vogliamo rafforzare il presidio su questa area. Intanto, anche in Parlamento, qualcosa si muove. Le commissioni giustizia e finanze in Senato, impegnate nell'esame del DDL contenente modifiche al testo unico sull'azzardo, hanno rilevato l'esigenza di chiarire qual è la posizione in merito del governo, visto che lo Stato ha notevoli introiti fiscali da giochi e scommesse. Per approfondire i vari problemi, si è deciso quindi di procedere ad audizioni della SOGEI, della Polizia Postale e degli stessi monopoli. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Viviana D'Aloiso, Lobby potenti dietro il gioco d'azzardo, pubblicato da Avvenire di mercoledì 4 luglio. I giochi della 12ª Olimpiade si sarebbero dovuti svolgere a Tokyo, in Giappone, dal 21 settembre al 6 ottobre 1940. In seguito allo scoppio della guerra tra Cina e Sollevante, l'Olimpiade venne dapprima spostata a Helsinki, poi, con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, definitivamente annullata. Eppure, nell'agosto del 1940, alcuni prigionieri di guerra celebrarono i giochi olimpici allo Stalag 13A di Langwasser, vicino a Norimberga. Parteciparono prigionieri belgi, francesi, britannici, norvegesi e polacchi. Le Olimpiadi sono riprese dopo la Seconda Guerra Mondiale nel 1948 a Londra. Le due edizioni che dovevano precederle, quelle del 1940 e del 1944, 12ª e 13ª, sono state cancellate. Eppure, sia nel 40 che nel 44, il seme olimpico è germogliato. Lo sport era fonte di vita, di pace, di serenità. A dare vita a quelli che possono essere considerati giochi, tre località tra Germania e Polonia, Langwasser, Woldenberg e Grossborn, diventate tristi perché durante la guerra erano campi di prigionia. C'erano ufficiali e soldati che erano stati fatti prigionieri dai nazisti nel 1939. Vivevano tra filo spinato e solitudine, tra paura e miseria, e nel filo spinato che li fermava c'era la corrente elettrica. Molti prigionieri, pur di non vivere così, sono morti contro quelle reti. Con quella paura e quella miseria, lo sport era l'unica ragione di vita, una luce per non morire. Mentre c'erano i bombardamenti, mentre la guerra non lasciava vivere, è venuto a galla lo spirito olimpico. In quei campi sono state disputate le Olimpiadi dimenticate, gare la cui testimonianza è visibile nel Museo dello Sport di Varsavia. Nel 1940 autore dell'iniziativa è stato Theodor Niewiadomski. Quei soldati volevano far vivere le Olimpiadi anche se il Comitato Internazionale Olimpico non ha mai voluto riconoscere quei giochi. Diversi i motivi. Non avevano internazionalità e c'era la guerra, mentre durante le Olimpiadi deve esserci pace. Eppure a Langwasser, dove erano rinchiusi i soldati, alle competizioni hanno preso parte atleti di 7 nazioni: Francia, Belgio, Polonia, Gran Bretagna, Olanda, Jugoslavia e Norvegia, mentre 4 anni dopo hanno gareggiato solo polacchi. Non c'era la pace, non c'era una multinazionalità estesa, però c'era l'etica olimpica in quei campi. Tutto era stato organizzato con attenzione. Le coppe? Ricavate dalle gavette. Le medaglie erano di cartone. Gli sport? Non c'erano quelli militari, quindi niente scherma. Il lancio del peso era svolto con una pietra e per non mostrare alle sentinelle il campo di pallavolo veniva coperto dalla visuale con la biancheria stesa. Erano giochi segreti, ma giochi con grande spirito olimpico. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Francesca Monzone, Le Olimpiadi dimenticate, pubblicato da Il Messaggero di lunedì 2 luglio. Circa 5.000 siriani hanno cercato rifugio in Giordania nell'ultima settimana per sfuggire al bagno di sangue nel loro paese. Lo ha annunciato l'UNHCR, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, che ritiene probabile che altre persone cerchino la fuga nei prossimi giorni. Ad oggi la Giordania ospita già 140.000 siriani e l'ONU preme sulla Giordania per accelerare l'allestimento di un campo rifugiati per i siriani. Ogni giorno siamo raggiunti da notizie sempre più allarmanti sul conflitto interno che si sta consumando in Siria e che alcuni chiamano guerra civile. Siamo tutti consapevoli che i conflitti armati non risparmiano nessuno e che talvolta, purtroppo, coinvolgono anche i bambini. Ma le cronache riportano fatti ancora più gravi. Secondo l'UNICEF, l'uso indiscriminato delle armi pesanti da parte dell'esercito nella cittadina di Hula avrebbe recentemente causato la morte di 32 bambini di età inferiore ai 10 anni e il ferimento di altre centinaia. La strage di Hula è stata severamente condannata nel corso di una sessione straordinaria dal Consiglio di sicurezza dell'ONU, che ha chiesto con forza al governo siriano di ritirare le truppe e gli armamenti pesanti dai centri abitati. Stando alle Nazioni Unite, dall'inizio del conflitto sarebbero stati uccisi almeno 500 bambini, ma altri gruppi a tutela dei diritti umani sostengono che sarebbero stati addirittura 1200 nei 15 mesi di rivolta contro il regime di Bashar al-Assad. La notizia più sconcertante, però, è quella secondo cui le forze del governo, durante le loro incursioni nei villaggi, avrebbero razziato decine di bimbi tra gli 8 e i 13 anni, affinché soldati e miliziani potessero usarli come scudi umani, posizionandoli sui tank perché non si sparasse contro i carri armati o dinanzi ai finestrini degli autobus che trasportavano il personale militare dentro i villaggi per i raid. Di fronte a tanta violenza, si rimane senza parole, ma non si può e non si deve restare inerti. Ogni giorno persone coraggiosissime appartenenti a enti governativi e ONG cercano di portare aiuto sia a coloro che vivono nei campi profughi, sia a chi è stato ospitato nelle comunità locali. Benché le scuole siano state chiuse, perché inaccessibili o divenute troppo pericolose da raggiungere, queste persone cercano di garantire non solo l'istruzione, ma anche la fornitura di acqua potabile e di servizi igienico-sanitari. Se la situazione non migliorerà, però, c'è il rischio che gli operatori, nonché gli osservatori, siano costretti a interrompere le missioni. La violenza è qualcosa che ci riguarda tutti da molto vicino. È indispensabile che ce ne rendiamo conto e che agiamo di conseguenza. Il messaggio, dunque, è tenere alta l'attenzione sulla grave situazione che si è creata in Siria, affinché i governi di tutto il mondo e le organizzazioni internazionali si prodighino per offrire aiuti alla popolazione e per dare il proprio contributo alla risoluzione di questo insensato conflitto. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Giulia Bongiorno, presidente della Commissione Giustizia della Camera, dal titolo «Siria, basta stragi di bimbi», pubblicato dal settimanale Oggi di questa settimana.